oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Buongiorno a tutti, buongiorno Francesco Campione. Buongiorno. E buongiorno Willy in regia. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Oggi Francesca? Oggi Francesca siamo qui. Cosa ci presenti cara Francesca? Ma io insomma aveva lasciato un po' il discorso in sospeso l'altra volta, si parlava di omofobia, si era arrivati a un certo punto a ragionare su quelle che per allargare un po' il discorso sono sia le problematiche di chi è perseguitato, di chi è oggetto di atti o parole di omofobia e anche di chi invece li commette, diciamo così, e quindi avevamo un po' analizzato, mettendoci un po' nei panni sia dell'uno che dell'altro, e io non so, mi sembrava che la trasmissione si fosse conclusa che in entrambi i casi c'è anche un grosso problema di crisi di identità. E quindi non potendosi o riuscendosi bene a definire, il problema si amplifica. Non è un caso, per esempio, che tra gli omofobi ci siano molti omosessuali. E non è nemmeno non c'è nemmeno da sottolineare che comunque quello che diceva l'altra volta il professor Campione, anche l'omofobo appunto perseguitato da questa fobia mette in crisi anche se stesso e quindi la sua identità, quello che vorrebbe essere e quello che invece nello che invece vede nello specchio degli occhi degli altri. Sì, in realtà questo tipo di problematica è una problematica più generale, appunto quella di come si acquisisce l'identità, cioè chi non ha un'identità precisa è più suscettibile ad andare in crisi. Chi ha un'identità contraddittoria, un'identità da tanti punti di vista, naturalmente si può vedere il problema dell'identità. Però il punto dell'identità forse può essere affrontato in un modo non rituale. E cioè, se è vero che c'è bisogno di un'identità per stare in equilibrio nell'esistenza, per esempio, quando ti chiedono come ti chiami, ti chiedono anche chi sei. E quando tu dici come ti chiami, dici anche qual è la tua identità. Ora, come si sa, non c'è niente di più difficile, soprattutto nel mondo giovanile, che presentarsi. Allora, come dire, viviamo in un'epoca di crisi della formazione dell'identità. Le ragioni di questo sono molteplici, ovviamente. La prima ragione è di tipo educativo, cioè viviamo in una cultura che non sa con precisione quale identità vuole che noi acquisiamo quando siamo bambini o ragazzi, e spesso finisce per rinunciarci. Il che vuol dire che noi un'identità, dato che ne abbiamo bisogno di averla, ce la facciamo per vie le più tortuose, le più impensate, le più strane. Per cui, come dire, quando per esempio si vuole rintracciare il percorso di formazione dell'identità di una persona, nel mondo di oggi ci si trova in una specie di labirinto e ci sono parecchi enigmi. E allora ci sono due tipi di reazione a questa realtà, a questo fatto, che naturalmente determina tutta una serie di problematiche di disagio individuale e anche di problematiche nelle relazioni, perché avere a che fare con uno che è contemporaneamente buono e stronzo non è così semplice. Avere a che fare con una persona che sa cosa vuole per certi aspetti e non sa cosa vuole per altri, cioè che ha un'identità contraddittoria o in crisi, è difficilissimo. Ma ci sono due scuole, accennerò soltanto a questo, sul tipo di reazione che dovrebbe essere quella giusta a questa problematica, cioè alla problematica del fatto che viviamo in un'epoca di crisi dell'identità, in cui è difficilissimo avere un'identità definita, precisa, coerente, è molto difficile, soprattutto nel mondo giovanile. Le scuole sono due di reazione. C'è chi dice bisogna tornare ai vecchi tempi antichi in cui la società forniva dei modelli forti di tipo genitoriale, i modelli per, prima di tutto, e quindi superare la crisi del padre, a scuola dare dei modelli ben precisi ai ragazzi e alle ragazze perché abbiano un'identità alla fine forte e definita e siano, acquisiscano sicurezza in se stessi e così via. Questa è una scuola. L'altra scuola è quella che francamente, come dire, io preferisco perché è più ricca di conseguenze positive, no? È quella che dice approfittiamo della crisi dell'identità per mettere in discussione il valore dell'identità. Cioè, in definitiva, un'identità ben definita non è detto che sia tutto questo sballo nella vita, no? Cioè, avere un'identità ben definita vuol dire, per esempio, vuol dire essere più sicuri di sé, però vuol dire, per esempio, non cedere mai il passo di fronte a chi ha un'identità diversa dalla tua. E in questo modo torniamo al rapporto fra le identità diverse, no? Cioè, se noi finalmente mettessimo in dubbio la necessità di un'identità ben definita, noi potremmo intravedere un modo diverso di gestire l'interazione tra le diversità, cioè un modo non conflittuale di interagire l'interazione tra le diversità. Ma resta una domanda alla quale per il momento non voglio rispondere, resta una domanda che pongo: se mettiamo in discussione l'identità e non lavoriamo più per far sì che ciascuno si costruisca un'identità definita, perché questo poi consente sul piano sociale, avendo un'identità non definita, di non andare in una direzione di scontro con i diversi, no? In quale modo possiamo far sì che tutti i disagi della perdita o della non acquisizione di identità vengano combattuti? Per esempio l'insicurezza profonda che uno ha quando si sente doppio, quando sente spinte contraddittorie in sé e nessuna di queste spinte prevale perché non ha un'identità ben definita. Come si risponde a questo problema? Problema al quale storicamente si è risposto costruendo un'identità. Ti fermo un secondo perché la settimana scorsa, al termine, qualche ora dopo il termine della nostra trasmissione, le agenzie hanno battuto questa notizia. Ovviamente qui in questo caso riguarda specificamente una piccola fettina di popolazione e anche particolare, ma praticamente la Germania, attraverso la Corte Costituzionale, ha sentenziato la possibilità a partire dal 1° novembre di acquisire l'identità di genere neutro, né maschio né femmina, neutro, per quelle persone, per quegli individui che nascono ermafroditi, quindi che non hanno un apparato genitale ben definito, oppure che hanno alcune caratteristiche dell'uno e alcune caratteristiche dell'altro, e che solo attraverso invece un'identità psicologica, pian pianino, possono decidere qual è, diciamo, il rivestimento che più, se posso definirlo così, che più li soddisfa e li fa sentire se stessi. Una volta erano i medici o i genitori, o i medici in combutta con i genitori, a decidere questo è maschio o questo è femmina, e facevano in modo di atrofizzare quei caratteri che invece andavano in un'altra direzione. Ecco, questo è precisamente un esempio perfetto per illustrare la problematica che, di cui parlavamo prima. Cioè la notizia completa è che da quando c'è la possibilità di scrivere neutro, no, né maschio né femmina, i genitori dei neutri protestano perché questo metterebbe in condizioni di svantaggio i loro figli, perché non sanno come relazionarsi con un neutro. Sì, perché non sanno, ma soprattutto la protesta sta nel fatto che come faccio io a mandare mio figlio a scuola e quando lui si presenta gli dicono ma tu sei maschio o sei femmina, lui dice sono neutro. È un problema anche questo, devo dire. Allora il problema è precisamente questo, cioè cosa emerge da questa situazione? Emerge il fatto che l'identità in realtà di ciascuno di noi non è, come dire, soltanto qualcosa di oggettivo, ma è qualcosa di soggettivo, cioè non solo uno può essere maschio o femmina per i caratteri sessuali secondari più o meno espliciti che lo fanno essere appartenere a un certo sesso, oppure può essere neutro se i suoi caratteri sessuali sono in qualche modo ambigui. Ma dipende anche da come dal fatto se uno si sente maschio o si sente femmina, e dipende anche dal fatto da come vedono gli altri il maschio o la femmina. Per cui in un mondo in cui sono più apprezzati i maschi, essere femmina è essere di seconda categoria. In un mondo in cui o si è maschi o si è femmine, essere neutri vuol dire essere di terza categoria. No. Quindi il problema, secondo me, appunto, questa notizia pone appunto quella domanda che dicevamo. Come possiamo fare per aiutare le persone a sentirsi fornite di valore, a prescindere dal fatto di essere maschi, femmine o neutri? Perché il problema è proprio questo. Se il valore aumenta a seconda o diminuisce a seconda dell'appartenenza di genere o di sessuale, è ovvio che ognuno aspirerà ad appartenere al sesso forte. Quante donne ci sono che vorrebbero essere maschi? No. Io conosco anche molti maschi che vorrebbero essere femmine, perché ci sono elementi di superiorità nell'essere femminile. Non conosco ancora quasi nessuno che pensa che vorrebbe essere neutro. No. Forse, allora, il problema è come fa una società, a prescindere da come uno si presenta, a giudicare una persona, cioè ad attribuire valore a una persona a prescindere dalle sue caratteristiche. Comunque oggi, professor Campione, marchi male, te lo dico, perché per darci delle risposte e continui a fare delle domande, non va mica bene. Allora le risposte ce le daranno i nostri ascoltatori o le ascoltatrici scrivendo al 333-180-9494, aiutateci a risolvere gli enigmi del professor Campione, oppure al numero fisso 051-3464-58. A queste domande che ci vengano fatte da un prezioso luminare in materia, come rispondiamo? È qui il bello dell'enigma, insomma un po' particolari ovviamente, l'argomento. Ci mancherebbe altro, assolutamente molto importante, la perdita di identità oppure la non conoscenza o il rinnegare la propria identità, che diciamo è ancora peggio probabilmente perché è una castrazione e un farsi del male da soli. Per cui, insomma, diciamo che di carne al fuoco ce n'è tanta, di parole al vento se ne possono dire tantissime. Intanto che meditiamo, mandiamo un po' di musica, Francesca. Direi di sì. Perfetto, allora ci ascoltiamo. Rispondiamo intanto con la musica. Rispondiamo con la musica e coi Daft Punk. Thank you. 6 novembre, rientriamo in diretta alle 13.21 lasciando i Daft Punk per parlare insieme al professor Francesco Campione e Francesca Clementoni per questo Oltre alla crisi. Abbiamo parlato tanto di crisi, è un po' la parte della nostra trasmissione, crisi in un senso, crisi economica, crisi in un altro, chiacchierando fra di noi fuori onda, perché poi è così alla fine che costruiamo mattoncino per mattoncino il nostro discorso. Si parlava di crisi di... No, nel senso che andiamo di vaneggiamento in vaneggiamento. Ma no, non proprio. Diciamo che siamo andati in maniera passo passo verso una crisi di comunicazione, cercando di risolverla ovviamente, o almeno cercando di parlarne, perché probabilmente il parlarne a pelle, con un contatto guardandoci negli occhi, è il modo migliore forse per risolvere la crisi di comunicazione. Abbiamo parlato di crisi identità, perché improvvisamente questo salto di palo in frasca, che è solo apparentemente un salto di palo in frasca, perché per combattere, per conoscere meglio se stessi, ho lanciato chiacchierando questa idea. Probabilmente si conosce meglio se stessi confrontandosi, conoscendo e comunicando anche con gli altri. È calato il silenzio. No, no, non è calato, è che io ancora avevo nell'orecchio Genoveffa. L'accusa di essere enigmatico, cioè di fare troppe domande e di dare troppe poche risposte, no? Ecco, allora io, come dire, prima di passare alla nuova impostazione, che è giustissima, e cercare di collegare il tutto il discorso, volevo dire che ci sono tematiche, e la tematica dell'identità probabilmente è una di queste, ci sono tematiche talmente complicate che sono più importanti le domande delle risposte. Cioè nessuno ha la risposta. La risposta o le risposte bisogna costruirle. Come si costruiscono? Parlandosi. Come si costruiscono? Comunicando. Per cui direi che forse si potrebbe dire che l'alternativa, che mi sembra un'alternativa, come dire, un po' conservatrice, del tornare a forgiare identità forti e coerenti, mi sembra un'alternativa un po' conservatrice, devo dire, no? Non dico di destra o di sinistra, conservatrice, perché la conservazione ha tutti i colori, no? Un po' conservatrice. Mi sembra invece più evolutivo, più progressivo pensare che la soluzione alla crisi d'identità sia incominciare le identità personali a costruirle insieme agli altri attraverso un confronto, appunto, serrato, attraverso una comunicazione. Purché, però, attenzione, la comunicazione non venga intesa come viene intesa oggi, cioè come scambio di informazioni. Perché se si pensa, per esempio, che una costruzione comune di un'identità comune, per esempio siamo tutti nella stessa città e dovremmo essere tutti bolognesi, se si pensa che si possa costruire attraverso scambiandosi informazioni, si dice solo una parte della verità, perché è necessario invece comunicare davvero. Per costruire identità comuni vuol dire esporsi agli altri, vuol dire cioè non vergognarsi della, e questo riconduce al tema di prima, c'è chi si vergogna di essere omosessuale, c'è chi si dovrebbe vergognare di essere omofobo, no? Allora io credo che il punto sia veramente questo, l'alternativa probabilmente è cercare insieme di costruire per ciascuno un valore che prescinda dalle sue caratteristiche, qualunque sia, ricco, povero, omosessuale, eterosessuale, bello, brutto, maschio, femmina, qualunque sia la sua caratteristica, il valore di una persona non dovrebbe derivare dalla sua identità, cioè dalle sue caratteristiche, ma dovrebbe derivare da quello che riesci a costruire insieme con gli altri. Per poterlo fare, però, bisogna aprirsi agli altri, cioè avremmo bisogno di un modo di comunicare completamente differente da quello che vige nella nostra cultura, che è un modo di comunicare, quando va bene, per negoziare. Quando va bene, perché il massimo di comunicazione umana della nostra cultura è il negoziato. Oltre questo non si riesce ad andare, e quando non si riesce ad andare oltre il negoziato vuol dire che non si riesce a mettere in discussione tutto di sé. Allora la virtù vera della crisi dell'identità, del fatto che uno non ha un'identità forte, sta nel fatto che proprio perché è forte la può mettere in discussione di fronte a un altro. Proprio perché non è forte, scusate, la può mettere in discussione di fronte a un altro. Provocazione delle quasi l'una e mezza. Ma non è anche questo un, cioè il relazionarsi con gli altri non è per forza una mediazione, perché io ci metto un po' del mio e tu ci metti un po' del tuo e io devo cercare di riconoscere un po' del tuo e tu devi cercare di riconoscere un po' del mio. Voglio dire, la relazione non è essa stessa un negoziato? Se io so qual è il mio, ma se sul mio sono in crisi, noi siamo partiti non da un mio che so qual è. Quando io so qual è il mio, per esempio sul piano sindacale, io so qual è il mio interesse, contratto, l'operaio sa qual è il suo interesse, il suo datore di lavoro sa qual è il suo interesse, contrattano sulla base di qua. Ma supponiamo che l'operaio non sappia qual è il suo interesse e il datore di lavoro non sappia qual è il suo interesse, perché sia l'identità dell'operaio che l'identità dell'imprenditore sono in una crisi profonda, no? Non è più un problema di mediazione tra due entità che si controllano, cioè che sono di qualcuno, che sono nel possesso di qualcuno, ma si tratta di un confronto vero, cioè ci può essere qualcosa che nella comunicazione appunto tra identità forti non c'è, e che è lo scambiarsi le parti. Tu vieni al mio posto e io vengo al tuo. Adesso ti faccio una domanda prima della pubblicità, che poi lasciamo in sospeso, direi, siamo già in orario. Si può fare. E poi mi rispondi dopo. Ok, questo. Allora, come la gestiamo invece la paura nel non avere una forte identità, di essere sopraffatti dall'altro? E quindi di essere inglobati nel suo percorso e di essere completamente disintegrati nella già non forte identità. Quindi per fortuna un po' di tempo per pensarci. Certo. Punto di domanda. Hai tutta la pubblicità per pensare. Benissimo. È un po' anche di una cantante omosessuale, Michelle Ndeje Oselo, una grande bassista qui con Herbie Hancock. A fra poco. Death you realize, hatred is futile. Sin a figment of our imagination, and compassion is often greater than God. So come here, let me kiss your mind, bathe your soul in a nocturnal sunshine. Love only pacifies the urge to die. Submerge between warm thighs, infiltrate the injured dreams of the world in a nocturnal sunshine. While man simply dreams, and I open up myself to live the dream and give you love far beyond earthly means. State ascoltando Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko 103.1 FM. State ascoltando Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko 103.1 FM. alle 13.35 minuti di questo mercoledì 6 novembre inizia la seconda parte di Oltre la crisi, in studio con Francesca Clementoni e il professor Francesco Campione. Sono arrivati anche i primi sms, ma prima c'è una domanda in sospeso, esatto, prima dell'SMS, esatto. Perché sennò qui apriamo parentesi e non le chiudiamo. Allora, dicevamo, come gestire in una situazione di, tu consigliavi, in una situazione di identità non forte, di aprirsi all'altro, di relazionarsi all'altro, e quindi due identità non forti comunicando riescono pian pianino a costruire un'identità forte in comune, nel senso ognuno la sua, però insomma insieme. E la mia domanda era, però a monte c'è una grossa paura, soprattutto di chi non ha un'identità forte, che è quella di essere fagocitato dall'altro, perché non sa in effetti fino in fondo chi ha davanti, e quindi già di perdere quel poco di già fragile identità che lo possiede, si può dire così. Certo. Che lo opprime. Sì. Che gli appartiene. No, io direi che qui noi abbiamo un enorme problema culturale della nostra società, no? E cioè, noi dovremmo scoprire una delle caratteristiche più profonde, più fondamentali dell'umano, riscoprire probabilmente, o scoprirla per la prima volta, dipende, che è questa. Non è vero che anche quando abbiamo un'identità fragile o contraddittoria o in crisi, noi per questo siamo deboli. Non è vero. Perché? Qual è la nostra forza anche quando non ci presentiamo con un'identità definita? Che sembriamo deboli, in effetti, no? Ci fanno le domande, non sappiamo cosa rispondere, rispondiamo in modo contraddittorio, ci dicono dove vuoi andare, mi vuoi sposare, no, lo so, vorrei, ma non posso. Sembriamo deboli, no? Ma resta però una nostra forza. Qual è? Il fatto che nessun altro può sapere che cosa sta succedendo dentro di noi. Cioè, noi dovremmo, come dire, far sì, e questo è un problema educativo, che fin da bambini si scoprisse che c'è una forza che la debolezza non toglie, e cioè la forza dell'alterità. L'altro è inarrivabile neanche con la più grande delle violenze. Prendiamo la più grande delle violenze: tu lo uccidi, ma lo perdi. Se non lo uccidi, lo raggiungi, lo torturi, ma non lo raggiungi del tutto. Quello ti maledice dentro di sé. Tu gli fai il più grande bene possibile per te e lo raggiungi solo in parte. Allora, questo è l'antidoto. L'antidoto fondamentale è questo. Cosa che ci può far scoprire, se noi riusciamo a mettere in evidenza e a insegnare fin da bambine le persone, che dentro di te non ci può venire nessun altro. Questa è la tua forza. La forza del soggetto è la sua alterità rispetto a un altro. Neanche quando ti classificano, ti mettono un'etichetta, ma dentro lo sai solo tu cosa c'è. Certe volte manco tu. Ma non corrisponde all'etichetta, no? Quindi, come dire, questa idea che tutta la nostra forza stia nella nostra identità, cioè in quello che appare di noi, in quello che è in grado, in quello che si presenta agli altri, è un'idea sbagliata. Se l'umanità, come dire, se all'umanità si rivelasse questo aspetto, si scoprirebbe anche un'altra forza, che è la forza della debolezza, la forza della vulnerabilità. Prendiamo un bambino. Se in un'assemblea di tagliatori di teste, quelli che tagliano le teste, un'assemblea che sono lì per imparare come si fa a tagliare le teste, no, arriva un bambino, il tagliatore di teste più feroce si sente cattivo se non bada a quel bambino quando quel bambino piange, no? Cioè, chi è più forte, il tagliatore di teste o il bambino che piange? Cioè, in realtà noi dovremmo scoprire, appunto, che ci sono aspetti del nostro valore che non sono legati alla nostra presenza, alla nostra identità, ma sono precisamente legati al fatto che gli altri non ci possono entrare dentro fino in fondo e al fatto che siamo nelle mani degli altri. E quanto più siamo nelle mani degli altri, tanto più gli altri esitano a farci del male. Queste sono le nostre vere forze, non tanto la nostra identità. Perché di fronte a un'identità più forte, qualunque identità fortissima perde. E in merito a quello che dicevi prima dello stacco pubblicitario e anche a quello che stai dicendo ora, ti leggo l'SMS molto bello che ci ha mandato Stefania. Nella vita mi è capitato di perdere tutti i ruoli che garantivano valore e coerenza alla mia identità. Pur consapevole di essere uno, nessuno e centomila, la mia identità forte mi ha fregata. Ora ricomincio a capire chi io sia e provo a ricostruire una nuova identità, spero in modo più fluido. Senza le persone che mi circondano non saprei da che parte prendere. Tutti confusi, ma almeno proviamo a condividere forza e fragilità senza troppi pudori. Non ho risposte, ma grazie per aver aggiunto nuove domande. Ecco, mi ha colpito molto di questo messaggio quando lei dice la mia identità forte mi ha fregata, quindi va esattamente in questa direzione, la rigidità che può portare l'arroccamento, che può portare un'identità troppo forte. Certo, questo mi sembra bellissimo, questo messaggio. L'identità, potrebbe essere questo lo slogan di oggi: l'identità forte ti frega. Perché ti frega? Come dimostra, come dire, anche tutti i giorni, anche la nostra vita quotidiana. Più tu sei forte e più rischi che un altro più forte di te ti mangi. Vale in economia, vale nell'intelligenza, vale nella bellezza, vale in tutto. Più tu sei bello e più rischi che un altro più bello di te ti scalzi. Più tu sei ricco e più rischi che un altro più ricco di te ti mangi. No. L'identità forte ti frega. Il punto che vorrei anche sottolineare rispetto a questo e anche un altro. Noi, nonostante però questo, abbiamo bisogno di dircelo. Allora perché valiamo? Se non valiamo per quello che sappiamo fare, se non valiamo per come ce la raccontiamo, se non valiamo per l'immagine che diamo agli altri, cioè se non valiamo per la nostra forte identità, perché la nostra forte identità è dovuta al fatto che sappiamo fare molte cose e che ce la sappiamo raccontare e presentarci nel modo giusto, che ci sappiamo vendere, poi in definitiva, no? D'accordo? Ma se non è per questo che valiamo, che abbiamo dimostrato che non è per questo che valiamo, che questo ci può anche fregare, perché valiamo? Ecco, questo secondo me è un tentativo. Noi abbiamo bisogno di cercare di dircelo. Allora, come dire, io, siccome sono, non mi dimentico che sono un professore, farò due citazioni, no? Una citazione da una pensatrice cristiana che, come dire, ha fatto delle esperienze nel mondo del lavoro, è andata a lavorare in fabbrica per poter filosofare, che è Simone Weil, no? Una casa. Simone Weil diceva, gli uomini valgono tutti uguale, a prescindere da chi sono, se sono giovani, se sono vecchi, se sono ricchi, se sono poveri, se hanno un'identità forte, un'identità debole, valgono tutti uguali perché hanno in comune una cosa tutti, il desiderio del bene. Questo è un punto, secondo me, importantissimo su cui meditare. Lei naturalmente lo diceva con la B maiuscola, ma noi potremmo dirlo più tranquillamente per la vita quotidiana. Che cos'è che ci accomuna tutti quanti? omosessuali e omofobi, il fatto che tutti abbiamo il desiderio che ci vada bene. È diverso dal bene o che ci vada, sì, bene. Certo. Vale anche per i neutri questo. Vale per i neutri. Vale anche per tutti. Vale anche per i neutri. Per tutte le persone. Per tutti vale che ci vada bene. L'altra citazione che vorrei fare è dal filosofo di cultura ebraica, fenomenologo, eccetera, che è Emmanuel Levinas, il quale diceva: guardate che quando si dice ama il prossimo tuo come te stesso, non significa amalo come ami te, perché se tu ti ami di schifo non è che vale molto, no? D'accordo? Significa che quando ami il prossimo tuo sei te stesso, cioè che il tuo valore non deriva da questa o quell'altra caratteristica, ma tu hai valore quando c'è un altro di fronte a te che sta male, e anche se stai male anche tu, prima di pensare a te pensi a lui. E quindi direi che a questo punto, tra bene o che ci vada bene, è stata abbattuta ogni frontiera. Direi proprio, perché il bene, a quanto pare, del singolo diventa un bene di comunità, ovviamente. Quindi... Esatto, per cui per esempio, riprendendo la notizia, la notizia della Germania, secondo me bisognerebbe aggiungere... Ricordiamo qual era, perché magari chi non ha, chi è giunto ora. Allora, praticamente siamo partiti dalla notizia che in Germania dal 1° di novembre il genere non è più lasciato in bianco nel certificato di nascita. Si parla ovviamente di persone che nascono intersessuali, e quindi verrà aggiunto un nuovo genere oltre al maschile e il femminile, il neutro. Allora, bisognerebbe che nella carta d'identità non avrebbe nessun senso, cioè non ci sarebbe nessuna differenza che ci scrivessimo maschio, femmina o neutro, se subito sotto ci scrivessimo non importa. Sesso MF non importa. No, sì. Infatti sarebbe interessante, non importa. E poi volevo anche collegarmi, tu prima dicevi veniamo valutati per quello che rendiamo, una sorta di come ci sappiamo vendere. Diciamo anche che forse bisognerebbe rimpostare un nuovo patto sociale e di comunità del riconoscersi non seguendo le leggi di mercato, fondamentalmente, perché uno ha bisogno di vendersi se è completamente assoggettato non solo da una società in senso lato, ma anche da una comunità ristretta, più piccola, che gli sta intorno. Ma io sono anche un po' più cinico di te. Cioè, secondo me non è che, come dire, perché guardate, io penso che se guardiamo la storia, poi nel momento in cui si è instaurato, si è passati dal baratto al mercato con l'utilizzo del simbolo del denaro, no? L'umanità ha fatto un enorme progresso. Cioè, non è che noi poi dobbiamo dimenticarlo questo, no? No, ma io non volevo cancellarle in assoluto, per l'identità. No, ma voglio dire che il nostro problema è che se uno si vende per un buon motivo, si può vendere. Il problema è che certe volte si vende solo per vendersi. Questo è il vero punto. Non è tanto il fatto che dobbiamo sconfiggere il fatto che le cose o anche gli uomini si possano vendere o comprare. Ma qual è il motivo per cui tu ti stai vendendo, ti stai comprando? Oggi, per esempio, nel mondo di oggi assistiamo all'apoteosi di questo, no? Col denaro, a cosa serve il denaro? Se il denaro servisse a fare del bene, chi ce l'ha, fa del bene, va benissimo. Il denaro serve a fare altro denaro, cioè il denaro è fine a se stesso, vuol dire che vendere è un fine, non è un mezzo. Allora il problema è, benissimo, io mi posso anche saper vendere, valgo anche perché mi so vendere, d'accordo? Ma se per un motivo turpe che mi so vendere, non va bene, meglio quello che non si sa vendere. Assolutamente sì. Willy, ricordiamo i contatti. Anche se siamo in chiusura, li vogliamo ricordare. Mancano sì. 10 minuti, però non si sa mai. Esatto. Anzi, noi ci auguriamo. Un smsino al volo, non si sa mai. Una telefonatina al volo. 333-1-80-94-94 per gli sms, anche su WhatsApp, ricordo. E al fisso 051-34-64-58. Direi che scanditi, no? Perfettamente. Perfetto. Un branettino per fargli dargli il tempo di scrivere? Branettino per dargli il tempo di scrivere dalla Finlandia, The Five Corners Quintet. So high, there's always guys. sentiamo la voce di Mark Murphy insieme ai Five Corners Quintet per tornare in diretta a 13.56, ultimi minuti per questa puntata di Oltre la Crisi. Ah, io devo risolvere un problema. Anche nel solo senso, uno? No, uno sicuro, perché all'inizio ho sgridato Francesco perché mi apriva troppe domande e ce n'è una che non l'abbiamo ancora chiusa e si collega con l'ultima parte del discorso che stava facendo. Bene, se abbiamo appurato che una persona non si deve distinguere per quello che sa fare o per come si sa vendere e quindi la sua identità non si costruisce a partire da lì, diciamo, bene, però come si fa a costruire un'identità invece su altre basi? Perché il problema è complicato. Come ci si pone verso gli altri? Certo, secondo me ci sono... Potrei dirti come è un po' forte, come si afferma sé, il sé. Sì, come si afferma un sé senza costruire un'identità forte. Come si afferma il sé attraverso gli altri. Si afferma attraverso gli altri. Cioè, quello che ti può far sentire... Quindi ha ragione Stefania. Ha ragione Stefania. Quello che ti può far sentire di avere valore, nonostante il fatto che tu nel tuo sé individuale non scorgi o non lo vuoi scorgere perché sai che è una trappola, delle caratteristiche particolari con cui tu ti imponi agli altri, sono gli altri. Per esempio, io faccio sempre questo esempio, noi tutti... Io parlo per me perché per me ce l'ho. Io c'ho un tot di persone che mi vogliono vivo e un tot di persone che mi vogliono morto. No. Un tot di persone che desiderano che mi tolga dalle scatole e un tot di persone che invece desiderano che io mi presenti. No. Allora, come dire, valere a prescindere da quello che uno è dipende precisamente dal desiderio degli altri. Se gli altri ti desiderano e ti desiderano davvero, se ne fregano della tua, se tu hai un'identità forte o no. Se ne fregano. Quindi posso dire una cosa, togliersi anche quella convinzione che ti devono per forza desiderare o accettare tutti. Certamente. Tu, secondo me, il desiderio tuo dovrebbe essere che tu accetti e desideri tutti, non che gli altri ti accettino e desiderino. Sì, perché se tu... Ci avrei due o tre esempiuzzi che eviterei di accettare. Certo, però. Ma addirittura guarda, c'è uno psicanalista di cui non faccio il nome, un mio collega, no, il quale insegna ai suoi pazienti a trasferire il male sugli altri desiderandoglielo, no? augurandoglielo. No, desiderandoglielo, non augurandoglielo, desiderandoglielo. Cioè tu, io mi sento angosciato, dice, desidero che Luisa si senta angosciata lei. Tu ti concentri, lo desideri profondamente e pian pianino l'angoscia si sposta. Secondo il mio collega dovrebbe, secondo me non ci riesce. Anche secondo me. Secondo me non ci riesce, però voglio dire, se, siccome il mondo è pieno di questi che fanno quell'operazione anche senza che qualcuno glielo consiglia, se qualcuno glielo consiglia, io non vorrei mai essere tra quelli. Cioè, per questo io mi auguro di essere tra quelli che desiderano che stiano bene tutti. Così. Siamo in chiusura. Direi proprio di sì, abbiamo già abbozzato due o tre ideuzze per la puntata prossima, quindi sarà una sorpresa. Continueremo comunque in questo percorso, perché avrei notato, Willy, che alla fine si sta pian pianino dipanando una sorta bandolo, di gomitolo che ricollega un po' tutto, e quindi continueremo in questo alla nostro prossima percorso. Settimana, che sarà il 13 novembre. Una buonissima giornata all'ascolto di Radio Città Fugico e un saluto da William Piana, Francesca Clementoni e il Francesco Campione. Ciao a tutti. Ciao. Oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.